Italia in controluce. Buon pomeriggio da Daniele Biacchesi, oggi è l'11 di gennaio, Italia in controluce, due edizioni, 6.30, 13.30. Inizia oggi un mini viaggio di Italia in controluce tra gli amministratori virtuosi, quelli amati dai loro cittadini, secondo la classifica pubblicata ieri dal Sole 24 Ore. Jacopo Mattano ha messo a confronto il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, del PD, e il governatore del Veneto, Luca Zaia, della Lega. Penso che i fiorentini siano felici del fatto che questa città si è rimessa in moto, ha tante chance, ha tante occasioni, ha tante opportunità e non è soltanto un museo a cielo aperto del passato. Per questo sono particolarmente felice, perché useremo il consenso che c'è per fare scelte magari anche radicali e impopolari, ma di cui Firenze ha bisogno. È la vittoria anche di un diverso modello del Partito Democratico? Beh, questo non tocca a me dirlo, non sono in grado di dirlo. Certo colpisce che i sindaci più apprezzati, al di là del sottoscritto, abbiano avuto in passato, perché no, anche in queste ore, posizioni non propriamente entusiastiche nei confronti della segreteria. Mi riferisco a Chiamparino, mi riferisco a De Luca, i vari sindaci che stanno nella graduatoria delle classifiche. Penso che il PD farebbe bene a cogliere il valore simbolico di questa considerazione, cercando il più possibile di coinvolgere non solo i tre sindaci di cui stiamo parlando, ma vorrei dire soprattutto i sindaci che fanno un gran lavoro in periferia, per coinvolgerli. Insomma, un PD che sia un pochino meno chiuso nel Palazzo Romano e un pochino più aperto ai suggerimenti, ai sogni, perché no, anche alle critiche della gente che sta sul territorio. Le interviste sono state effettuate dal 15 settembre al 15 dicembre, cioè due giorni prima della paralisi maltempo sulla sua città. Crede che quei due giorni in più avrebbero intaccato questo risultato? Ogni giorno c'è qualcosa che aumenta o fa peggiorare. La graduatoria del sondaggio prende per esempio tutti i giorni in cui c'è stata la polemica sul viaggio ad Arcore, che è stata molto contestata e che in realtà io rifarei domani mattina, perché credo naturale che il sindaco di una grande città incontri il presidente del consiglio, e prende dei momenti invece in cui le cose sono andate particolarmente bene, perché il 28 settembre noi abbiamo riunito in tutta la città 100 assemblee contemporanee per discutere del futuro di Firenze con una partecipazione di pubblico straordinaria. Quanto al ragionamento della neve, io ho già detto tutto quello che c'era da dire. Tutti quelli che hanno vissuto quella pagina sanno che il problema vero non era la città di Firenze, era ciò che stava intorno, erano le autostrade, erano le ferrovie, erano le grandi strade di comunicazione bloccate. E però non sopporto il fatto che si possa sempre dare la colpa a quegli altri, per cui ho detto no, fermi tutti, una parte di responsabilità ce l'abbiamo e me la prendo tutta io e farò di tutto per cambiare le cose che non hanno funzionato. L'assunzione di responsabilità però sembrava aver portato ad un calo del consenso. Paradossalmente credo che questo abbia anzi contribuito a far crescere un atteggiamento di simpatia verso chi non dà la colpa agli altri ma prova a metterci la faccia, e perché no, si prende anche gli insulti. Quindi poi insomma lo vedremo, perché i sondaggi lasciano il tempo che trovano. Io sinceramente farei volentieri a cambio della graduatoria dei sindaci con la classifica di Serie A di calcio, ecco, fosse possibile farei a cambio domattina. Spero sia stata premiata la coerenza che ho dimostrato e abbiamo dimostrato fino in fondo. Abbiamo attraversato 10 mesi di estreme difficoltà, e per cui questa attestazione di stima mi fa ancora più piacere. Quanto ha pesato il consenso raccolto nella gestione dell'alluvione? Ma l'alluvione avrà sicuramente pesato, anche perché aver erogato gli acconti a 47 giorni d'alluvione non è da tutti i giorni, non è da questi tempi. Però io spero sia stata premiata anche la voglia di fare, il fatto che ho portato in questa amministrazione un tipo di gestione che è tipicamente manageriale e mutuato dal privato, quindi con i criteri che spesso si usano sulle aziende. Qual è la situazione e quali sono le prospettive per le zone alluvionate? Beh, innanzitutto noi abbiamo 300 milioni a disposizione, abbiamo erogato già i primi 100 milioni e continueremo ad erogare rispetto a famiglie ed imprese, e dopodiché è in piedi la trattativa sia a livello comunitario, in particolar modo con il governo nazionale, per gli investimenti. La quota degli investimenti è fondamentale per le opere di messa in sicurezza dei territori, ovviamente la lista delle opere supera il paio di miliardi di euro. Il cosiddetto ricatto fiscale che lei ha utilizzato durante l'alluvione per chiedere al governo i fondi necessari per far fronte all'emergenza, però rischia di diventare uno strumento di utilizzo comune nella governance delle regioni. Ma direi più che ricatto, è l'occasione per mettere i puntini sulle i. Non è una modalità che noi vorremmo usare, però il Veneto se lo può permettere, visto e considerato che è un saldo attivo, ovvero lascia 7 miliardi di euro delle proprie tasse a Roma, 7 miliardi che non tornano più sui nostri territori. Per il Veneto resta nel 2011 il problema del deficit della sanità. Come si risolve? Ma precisiamo che il bilancio d'esercizio, ovvero l'annualità, è assolutamente in linea con le altre annualità. Fra l'altro chiuderemo un bilancio di questo 2010 in maniera sicuramente migliore dei passati. La verità è che abbiamo delle quote di ammortamento mai accantonate, ma questo è un problema che ha la Regione del Veneto con le sue ASL e ci saranno i piani di rientro. La sanità del Veneto gode di ottima salute. Nei piani di rientro c'è anche la possibilità che siano chiusi alcuni ospedali? Beh, noi stiamo per presentare il nuovo piano sociosanitario dopo 15 anni in questa regione e con questo nuovo piano sociosanitario si prevederanno ulteriori ovviamente chiusure di ospedali che non ha più senso di esistere, ma del resto le dismissioni fanno parte della riorganizzazione, però vorrei anche ricordare che in Veneto le riorganizzazioni in questi anni si sono fatte e i risultati si sono visti. La sua regione è la prima per numero di domande per lavori di ampliamento e ricostruzione e demolizione delle abitazioni, quindi si riparte dal piano casa, si costruisce in una regione dove però c'è stato un grave disastro ecologico. Guardi, ricordiamo innanzitutto che l'alluvione ha interessato 550.000 cittadini con 327 comuni. È sbagliato sostenere che i guai dell'alluvione nascano dalla cementificazione selvaggia. Industria e teatro, banche, imprese e artisti per una volta insieme. È successo al Piccolo Teatro di Milano ieri sera in occasione del debutto oggi del nuovo spettacolo La Compagnia degli Uomini di Edward Bond. Il Sole 24 Ore ha messo a confronto esponenti di Confindustria come Ivan Lobello, del mondo delle banche come Corrado Passera, il presidente Fondo Italiano di Investimento Marco Vitale e un regista come Luca Ronconi. Il direttore del Piccolo Teatro, Sergio Escobar, dice a Marta Cagnola: questa volta il teatro parla dell'economia meglio della stessa economia. Non si pone il problema di convincere, non si pone il problema di dare risposte, ma si pone responsabilmente, quando è teatro responsabile, questo certamente lo è, di porre delle domande, di far condividere delle domande. Chiunque ti dia una soluzione, in genere di fronte a una complessità come è questa crisi, ti può dare delle intuizioni, ma se ti dà una soluzione vuol dire che sta cercando la scorciatoia. E questa scorciatoia può avere essere scorciatoia all'interno del sistema dell'economia, e questo è possibile, sono formule sbagliate, lo diceva Vitale, ma lo dicono tutti, non è più possibile uscire dalla crisi economica solo con le parole dell'economia, ma soprattutto è una scorciatoia perché lascia fuori, e non è demagogia, l'uomo. D'altra parte la quotidianità per noi è vivere questa crisi in una complessità che ci pervade la vita quotidiana e non trovare soluzione. Allora, paradossalmente, lo dicevo, quando si dice che Bond è di parte e mette il risentimento in scena, è l'unico modo, perché noi in realtà viviamo di risentimenti adesso, viviamo di egoismi e di chiusure. E rappresentare in modo così consolatorio invece sentimenti alternativi non fa entrare in vena, come fa il teatro, la voglia di chiedersi davvero se è vero questo, cioè il paradosso fa parte del teatro. Ha raccolto degli economisti attorno a un testo teatrale che parla di oggi pur non essendo di oggi. Beh, il testo è impressionante, questo è di 23 anni fa, quando è stato scritto, è stato messo in scena un po' dopo, ma è credo del teatro, proprio per le ragioni che dicevo prima, essere fuori sincrono rispetto agli accadimenti, non essere profeta, fuori sincrono vuol dire che è o uno splendido profondo anacronismo o un anacronismo all'inverso, nel senso che intuisce delle cose attraverso la parola, attraverso il paradosso, che accadranno. Non è profezia, è semplicemente stare nella fisicità delle cose e far parlare la fisicità delle cose. In palcoscenico ci sono 6 persone, 6 attori e sono 6 uomini e non sono l'idea astratta del capitalismo. Sono un modo fisicissimo di interpretare, quindi coinvolgendo le viscere, la ragione, che è la storia poi del teatro classico anche. Quindi paradossalmente è un testo classico. Banche e industrie che qua erano rappresentate devono investire in cultura anche in momenti difficili. Guardi, ci sono tanti modi di dirlo, l'abbiamo detto lamentandoci dei tagli, cercando di far capire perché c'è un errore interno al meccanismo dello spettacolo. Disinvestendo in quei modi, in quell'entità, si leva la responsabilità a chi deve gestire responsabilmente, mi passi la ripetizione, gli investimenti. Ma c'è un modo ancora più più importante, quello che noi vogliamo che passi, e cioè la ragione fondamentale per investire nella cultura, non solo le tecniche o le contingenze, le richieste di questo o di quel teatrante, mi ci metto anch'io, ma la ragione fondamentale oggi ho avuto una conferma, che in realtà attraverso il teatro si aprono possibilità e relazioni che la semplice immediatezza della risposta non sa dare. Ma noi per affrontare la crisi dobbiamo affrontare davvero le radici profonde, guardare oltre, non morirci dentro. Ho parlato del teatro paragonandolo allo spettacolo di maggioretta all'interno di uno spettacolo di vita, e la cosa, e non deve essere così. Sì, questo purtroppo è, nel senso che noi ci siamo abituati a questo, ritenere che gli uomini forti, ho usato un'altra situazione un po' meno ufficiale, un'immagine, gli uomini con i batuffoli di peli che giocano a calcio americano, hanno le maggiorette nell'intervallo. La partita vera della vita si gioca nel campo, poi c'è l'intrattenimento delle maggiorette. Beh, credo che quello che sta accadendo, l'ha detto Vitale, l'ha detto Passera, l'ha detto Riotta, l'ha detto Ivan Lobello, in realtà questa componente di cultura non è un segno di debolezza, non è un segno di marginalità, è un segno di interpretazione di ciò che accade. E quando si mettono le mani in pasta nella vita, il teatro fa questo, quindi ritenerlo un lusso da maggiorette e la partita vera è quella, beh, la crisi ultima ha decretato la fine di questa illusione. Era la seconda edizione di Italia in Controluce. Sul blog di Italia in Controluce lo trovate, radio24.it, poi quello su Facebook che continua a crescere, Radio 24 Italia in Controluce, su Twitter in Controluce, la mail controluce@radio24.it. Torniamo domani alle 6.30 con altre storie su Radio 24.